di settimane in qua, mi sento un'altra donna già, che vada tutto a rotoli. Ora, ora, ora, accanto a te ci sono io, amore sono tutto tuo, e sembra quasi un secolo, quando farò l'amore piacersi a un cinema. Che conosciute mai, la posta tra la biancheria era ora, ora, ora sfido il mondo io, un amore quando è mio, e sembra quasi un secolo, quando